Rock FM, sono le 8 spaccate, è il momento della sveglia, targata Rocky Horror Picture Show. Whoa. How you do, you met my faithful handyman. He's just a little broke down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Night. Or maybe a bite. Night. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, hey, I'm just a sweet transvestite. From transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. Patient. But maybe the rain is really to blame. Really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. Chiedo scusa, perdonatemi. Io il brano delle otto lo prendo un po' così. Che lo si può cantare, dai. Sweet Transvestite. Pensavo di dedicarlo ai dolci travestiti che quasi tutte le mattine incontro verso il cimitero monumentale qui a Milano, che di solito si picchiano quando io arrivo a Milano, così. Regalandovi questa immagine della capitale lombarda alle prime luci del mattino. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll. Oggi è venerdì, in teoria dovremmo mandare in riposo il Rocky Horror Picture Show, ma secondo me è qualche altra... non so, a me dà la carica di mattina. Poi bisognerebbe fare una votazione con voi là fuori, sempre se è democratica, mica che qualcuno poi si lamenta. Via SMS, via mail, se volete esprimere la vostra sul Rocky Horror Picture Show, sentitevi liberi di farlo. Tra l'altro, a proposito di democrazia totale qui a Pane, Burro, Rock and Roll, saluto anche il gruppo d'ascolto Non ci rompere il cazzo, perché scrive anche lui e ti accogliamo col bollino di certificazione del gruppo d'ascolto di Pane, Burro, Rock and Roll. Allora, si deve strombazzare Viola, Milano? Che mi chiedeva dopo le 8, perché sennò era in metro e non lo sentiva. Sono le 8 e 5, quindi sembra il momento adatto. Lei ha l'esame di linguistica russa. Sono un po' rock per questo. In bocca al lupo, e una strombazzata me la merito. Cioè, ma che orgoglio, capito? Un esame di linguistica russa. Ah! Grande Viola, stai in una botte di ferro! Andiamo con i Queen! Keep yourself alive! Questa è Rock FM, la nostra mattina. Puntata numero 20 di Pane, Burro e Rock and Roll. La colazione che dà assuefazione. Ho forte paura che i compleanni di quest'oggi andranno a finire male. Sa perché, caro Roberto Fricantoni? Me lo dica, per c'è favore. C'è una spada di Damocle costruita apposta sopra il suo cranio che si chiama Tempi Radiofonici. E quando intravedo compleanni come quelli che andremo a ricordare quest'oggi, conoscendo la sua prolissità, sarà dura. Lo so, ma del resto la cultura che vive in me, il piacere del sapere, la voglia di saggezza mi costringe ad approfondire. La cultura poi ti cura con premura e partiamo... E ti fa anche la fattura, occasionalmente. A volte. Partiamo sempre, ricordando... Senza fattura costa meno. Partiamo ricordando il grandissimo Marcello Mastroianni. Nasceva proprio il 28 di settembre del 1924, l'attore preferito da Roberto Fricantoni. Sì, uno dei miei attori preferiti, grandissimo interprete. Ricordiamo che la moglie Catherine Deneuve, mi può fare l'imitazione? Aspetta. Oui, je suis Catherine Deneuve. Mi è venuta? Molto bene. Eccezionale, perfetta. La moglie disse di lui, dica, che era un attore eccezionale. Ricorderò il famoso episodio, forse già detto, ma è bene ribadirlo, che la moglie Catherine Deneuve lo vide il marito Marcello Mastroianni recitare in una commedia in lingua madre francese, e lui, con il suo francese buono ma a volte non perfetto, riusciva comunque ad essere convincentissimo, profondamente comunicativo, tanto che la moglie rimase basita. Il saluto doveroso da Pane, Burro e Buon Rock and Roll a Marcello Mastroianni, che nasceva oggi, come nasceva oggi un altro grande della cultura italiana, della musica italiana, che scomparse nel 1980, era Pietro Ciampi, che nasceva in realtà nel 34, oggi sarebbe stato il suo compleanno. E diciamo che ha influenzato tutta la scuola genovese, nel senso che tutti gli autori, cantautori genovesi, Paoli, Bindi, Miaiuti, Lauzi, De André, tutti gli devono qualcosa. E dopo due pezzi da 90 italiani, due grandi uomini italiani, passiamo a una grande donna. Nasceva quest'oggi, nel 1934, tanti auguri alla mitica Bibi, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, questo ritmo caraibico che andiamo a ricordare, la mitica Bibi, Brigitte Bardot, che oggi compie. Vogliamo parlarne? Non lo so. Le dico solo che era Brigitte Bardot, fu lo pseudonimo di Camille Chaval. Si chiamava così? Sì. Camilla Cavallo, effettivamente. Ha fatto bene. Dove andava, a scegliere uno pseudonimo. Era anche una modella, oltre che una grande attrice. Era figlia di un industriale che si chiamava Charles Pitou Bardot e Annie Moussel. Bei nomi, ragazzi. Ma ricordiamo il suo impegno negli anni 70 come attivista dei diritti degli animali, e negli anni 90 le sue controverse opinioni politiche sui temi quali l'immigrazione, Islam, omosessualità hanno cambiato l'immagine popolare che aveva in passato. Noi comunque la ricordiamo bella come sempre, Brigitte Bardot. A proposito di belle, bella tra le belle, Lori del Santo nasceva quattro anni dopo Fricantoni nel 58. Ormai ho imparato, Fricantoni. Grazie, sono lusingato. Salutiamo Lori del Santo e chiudiamo con il solito scivolone. Ex moglie, scusi, siamo in una radio rock, dobbiamo ricordarlo, di Eric Clapton, Slow Hand. Anche qualche scappatella con George Harrison, raccontano rumors di corridoio. Ma chiudiamo con il solito scivolone, il solito classico scivolone della redazione di Pane, Burro, Rock and Roll, che non so perché, ma continua a segnalarci compleanni di porno dive e noi comunque li leggiamo. Nasceva nel 1967, auguri a Luana Borgia, porno star italiana. Auguri Luana, secondo me la redazione ci conosce meglio di quanto non vuol far credere. Può essere. Ma io non ho mai visto un film di Luana. Dica la verità. Mai. È arrossito. DJ Ari e lei è arrossito. Avrò scaricato qualcosa da internet, ma in questo momento non me lo ricordo. Auguri Luana Borgia, pornostar italiana. Complimenti. E me, che c'è? Someone out there, somebody needs you, somebody cares, somebody loves you, someone somewhere, but if nobody's there, here they come again, whispers in my head, same old sad refrain, wish I'd never said what I said, yeah, take me to the top. Here comes tomorrow and yesterday's news, empty and hollow, broken and bruised, no one to follow, nothing to lose, and only you can choose. Here they come again, whispers in my head. Lo dicono anche Ico and the Bunnymen, va tutto bene, it's alright. 8 e 17 minuti primi dalle frequenze di Rock FM. Complimenti Spadino, sfumino Ico and the Bunnymen, eh? La colazione rock che prosegue. Qualche minuto fa abbiamo svegliato gli amici della seconda ora con Rocky Horror Picture Show e in maniera democratica chiedevo commenti, ne leggerò alcuni. Marione 75 rosso nero, così si firma, grande Rocky Horror Picture Show. Ma mi considerate lo stesso rock anche se il mio musical preferito è Jesus Christ Superstar? Stai scherzando Marione, è ovvio, cioè più rock di così. Anzi guarda, c'era sicuramente in una delle riunioni di redazione che abbiamo fatto è stato anche proposto il Jesus Christ Superstar come colonna sonora delle 8 di qualche prossima settimana, perché no, magari già della prossima. Anche Paolo ci tiene a far sapere che il Rocky Horror Picture Show deve essere cantato e nessun riposo per lui, quindi Rocky Horror tutti i giorni, va bene, ci penseremo. Un ultimo saluto ad Alba che commenta: ho perso l'ultimo briciolo di credibilità con mio figlio facendo Tim Curry nella canzone Sweet Transvestite. No, piccolo figlio di Alba, stai tranquillo, tua mamma non è pazza, è solo un po' rock. Vedrai che anche tu quando inizierai ad apprezzare Rocky Horror, magari non adesso che sennò i tuoi compagni ti pigliano per pazzo, tra un po' di tempo quando anche tu canterai il Rocky Horror Picture Show capirai com'è la situazione. O voi là fuori dispersi in questo nuovo venerdì mattina che sentite, iniziate a sentire la paura perché i lampioni si sono spenti, guardate là, alleluia, alleluia fratelli, c'è una luce, la luce si chiama The Band, The Band. Yeah. Do you see the light? È certo che la vedo la luce. Do you see? Sì. Quella là! Certo che la vedo! Yes! Jesus H. God Christ! I have seen the light! Quanto tempo che non lo facevamo! Se anche voi vedete quella luce, la luce del rock and roll, imbracciate il vostro strumento virtuale, perché facciamo la banda! Cari figli, nelle macchine, rinchiusi in macchina con i vostri genitori, che vi stanno portando a scuola, all'asilo, tranquilli, non sono pazzi i vostri genitori, stanno solo facendo finta di suonare con noi. Aggregatevi anche voi, cari bimbini, prendete anche voi il vostro strumento virtuale. Quest'oggi facciamo finta di fare i Black Sabbath. Trasformatevi anche voi nella Rock FM All Stars Band. Io faccio la chitarra, vado di chitarra.

prima del grande appuntamento di domenica, dove consegneremo dietro testa attitudinale la patente davvero rocker. Come si faceva a scuola, il ripassone generale prima dell'esame finale. Esatto, è un po' la notte prima dell'esame, anche se in realtà oggi è venerdì e l'esame sarà domenica. Però intanto andiamo con l'ultimo test attitudinale di quest'oggi. Oggi parliamo di... Torniamo a parlare di Mr. Tambourine Man, celebre canzone di Bob Dylan, portata al successo anche dai Byrds. Un viaggio esoterico tra sogno e fantasia, uno dei brani più importanti della storia del rock. Secondo alcuni critici, Mr. Tambourine Man potrebbe essere un'allegoria utilizzata da Bob Dylan per intendere dell'altro. Che cosa? Tre le ipotesi per restringere il campo d'azione. Soluzione A. La parola tambourine è anche il nome di una marca di sigarette in voga negli Stati Uniti ai tempi in cui fu scritta la canzone di Bob Dylan, dallo stesso Bob. Ma nello slang newyorkese indicava lo spacciatore di stupefacenti, nello specifico marijuana, soprattutto. Hai capito il furbetto? È forse questa l'ipotesi esatta? Ma vedremo. Passiamo alla seconda. Secondo altri, Mr. Tambourine Man, citato nella canzone di Dylan, farebbe riferimento ad un amico del liceo, tale Robert Durer, col quale l'autore della canzone, Mr. Dylan, ebbe la sua prima esperienza omosessuale. Hai capito, Mr. Tamburello? Ma non sapevo che Bob fosse dall'altra sponda. Culattone? Ma non, no, so, non si aiuti. Passiamo alla terza. Lei pensi solo alle ipotesi, che è meglio. Tambourine Man era la marca di un motorino. Bam, bam, bam, bam. Un cinquantino, come diciamo noi, naturalmente gli americani hanno tutt'altra terminologia. Little 50. Esatto. Che Bob Dylan utilizzava ai tempi del liceo per andare a scuola. Era anche onomatopeico nel rumore. Fate la vostra scelta. Che cos'è Mr. Tambourine? La risposta, come al solito, ve la diamo dopo. La soluzione a tra poco.